Adolescenti Facebook dipendenti? Della mia vita. Dall'indagine sulla condizione dell'adolescenza, pubblicata a inizio dicembre da Eurispes Telefono Azzurro, sembra venire fuori un'immagine desolante delle prospettive e degli interessi degli adolescenti in relazione all'uso di internet. Anche se, stando ai dati, non tutto sembra perduto. Più del 37% degli adolescenti passa più di 2 ore su internet, sempre di più attraverso il cellulare. Il 52,6% dei ragazzi dichiara di guardare meno televisione. Il 35,2% di parlare meno al telefono. E il 36,4% di andare meno al cinema. Ben l'85,6% dei ragazzi dai 12 ai 18 anni utilizza Facebook. Quasi 7 ragazzi su 10, il 68,8%, sono su Facebook tutti i giorni. Si crea con il tempo una vera e propria ciberdipendenza. Il 42,5% controlla continuamente la posta elettronica o Facebook, sperando che qualcuno gli abbia inviato un messaggio. La metà dei ragazzi, 49,9%, dichiara di perdere la cognizione del tempo quando è online, dimenticandosi di fare altre cose. Ben il 34,3% dei ragazzi usa internet per non pensare e per sentirsi meglio. Quasi un ragazzo su 5, 19,5%, si sente irrequieto, nervoso e triste quando non può accedere alla rete. E il 17,2% ha cercato di ridurre l'uso di internet senza riuscirci. Allarmante è il diffondersi del fenomeno del sexting, ovvero l'invio di immagini e video a sfondo sessuale ad amici, fidanzati, adulti, persone conosciute e non. Ben il 6,7% degli adolescenti ha inviato foto o video a sfondo sessuale e il 10,2% li ha ricevuti. Preoccupante è inoltre il fatto che ben il 46,1% dei ragazzi legge di meno da quando utilizza internet. Il 21% sta meno all'aria aperta. Il 14,3% parla meno con i genitori e il 9,8% vede meno i suoi amici. In questo panorama, nonostante l'utilizzo massiccio delle nuove tecnologie, emerge un dato interessante. Quando si tratta di parlare di cose importanti, solo l'8,4% degli adolescenti dichiara di affidarsi ai social network, mentre il 75% dei giovani ritiene importante affrontarle di persona, parlando faccia a faccia.